Ad alta voce, Elia Shilton legge Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar. La mattina seguente mi destai molto per tempo. Quando aprii gli occhi era piuttosto buio e solo dopo qualche tempo udii la pendola nell'appartamento di sotto che suonava le 5. Volevo continuare a dormire, ma non mi fu possibile. Mi destavo invece sempre più e pensavo a mille cose. A un tratto mi vengono in mente un paio di bei periodi adatti per un trafiletto o un racconto d'appendice, lampi d'ingegno abbaglianti e inauditi. Ripeto tra me le parole una dopo l'altra e mi sembrano ottime. Vi si aggiungono poi altri periodi e di botto mi trovo sveglio, mi alzo a sedere e prendo carta e matita dalla tavola dietro il letto. Come mi fosse scoppiata una vena. Una parola incalza l'altra, si allinea nell'ordine, si formano situazioni, le scene si susseguono e azioni, botte e risposte mi sgorgano dal cervello e mi sento invaso da un sentimento meraviglioso. Scrivo come un ossesso, una pagina dopo l'altra, senza un istante di intervallo. I pensieri balenano così improvvisi e zampillano e scorrono così impetuosi che mi tocca lasciare da parte un monte di cose secondarie. Per quanto mi affanni, non riesco a scrivere con sufficiente rapidità. Sono in preda a un turbine di idee, di un'energia impetuosa. Ogni parola che scrivo mi sale alle labbra spontaneamente e quei momenti meravigliosi e benedetti durano e durano a lungo. Quando infine mi fermo e poso la matita, mi trovo sulle ginocchia 15-20 fogli pieni. Se quello che ho scritto ha qualche valore, sono salvo. Balzo dal letto e mi vesto. Il giorno si fa sempre più chiaro e luminoso. Posso quasi decifrare l'avviso della direzione dei fari laggiù accanto alla porta e presso la finestra c'è già luce a sufficienza per scrivere. Mi accingo immediatamente a rifare il manoscritto in bella copia. Una strana nebbia di luci e colori fluttua da queste fantasie. Sbalordito dalla lieta sorpresa, rileggo i bei periodi concatenati e riconosco che è quanto di meglio abbia letto finora. Sono stordito dalla felicità. La gioia mi insuperbisce straordinariamente e mi sento di nuovo a galla. Soppeso il manoscritto sulla mano e dopo un breve calcolo lo valuto senz'altro 5 corone perlomeno. Certo, a nessuno verrebbe in mente di mercanteggiare per 5 corone, è escluso. Anzi, a essere onesti, bisognerebbe riconoscere che in considerazione dell'ottimo contenuto 5 corone sarebbero un prezzo irrisorio. Non accetto l'idea di cedere gratuitamente un lavoro così buono. Per quanto mi consta, racconti di questo genere non si trovano per la strada. Chiederò dunque 10 corone. La luce aumentava via via nella stanza. Gettai un'occhiata alla porta e potei leggere senza gran fatica le lettere scheletriche degli addobbi funebri della signora Annesen nel portico a destra. Del resto, le 7 erano già passate da un pezzo. In piedi, in mezzo alla stanza, pensai che in fondo la disdetta della signora Günneschen arrivava a buon punto. Quella non era una camera adatta per me. Tendine verdi comunissime alla finestra e non proprio molti chiodi nelle pareti per appendervi la roba. Quella misera sedia a dondolo là nell'angolo non era, a guardar bene, altro che una caricatura di sedia, ridicola al punto che guardandola c'era da ridere, da sganasciarsi fino a sentirsi male. Era troppo bassa per una persona adulta e poi era talmente stretta che per uscirne ci sarebbe voluto, per così dire, un cavastivali. La stanza, insomma, non era tale da favorire il lavoro intellettuale e io, certo, non avevo intenzione di tenerla, no, assolutamente. Fin troppo avevo taciuto e sopportato e pazientato in quella topaia. Soddisfatto di me, gonfio di speranze e tutto compreso del mio articolo meraviglioso che ogni momento mi levavo di tasca e rileggevo, pensai di attuare subito la mia decisione e di fare trasloco. Presi in un angolo il mio fagotto, un fazzoletto rosso che conteneva un paio di colletti puliti e un po' di carta appallottolata che mi era servita per portare a casa il pane. Vi arrotolai intorno la coperta del letto e mi ficcai in tasca la provvista di carta bianca. Poi, per maggior sicurezza, frugai dappertutto per assicurarmi di non aver dimenticato niente. Non trovai nulla e mi affacciai alla finestra. La mattina era tetra e umida. Non un'anima presso l'officina bruciata. La fune della biancheria giù nel cortile era ben tirata tra muro e muro. L'umidità l'aveva tesa. Tutte cose che conoscevo. Perciò mi ritrassi dalla finestra, misi la coperta sotto il braccio, feci una riverenza all'avviso del direttore dei fari, mi inchinai davanti agli addobbi funebri della signora Anneschen e aprii la porta. A quel punto mi venne in mente la padrona di casa. Bisognava pure avvertirla del mio trasloco perché vedesse che aveva avuto a che fare con una persona a modo. Volevo anche ringraziarla per iscritto, poiché avevo tenuto la stanza qualche giorno oltre il termine. La certezza di poter stare tranquillo per parecchio tempo mi empiva l'anima a tal punto che promisi ancora 5 corone alla padrona quando fossi ripassato nei prossimi giorni. Volevo dimostrarle, senza possibilità di dubbio, quale galantuomo avesse ospitato sotto il suo tetto. Lasciai il biglietto sulla tavola. Giunto alla soglia, mi fermai ancora e mi voltai. La deliziosa sensazione di essere di nuovo a galla mi travolse e mi empì di gratitudine verso Dio e il mondo intero. Perciò mi inginocchiai davanti al letto e ringraziai Iddio ad alta voce per la grande prova di bontà che mi aveva dato quella mattina. Io sapevo bene che quell'estatica ispirazione che mi era venuta poco prima e mi aveva fatto scrivere era un'opera meravigliosa del cielo nel mio spirito, una risposta al mio grido d'angoscia del giorno prima. «Questo è Dio, questo è Dio», dissi tra me, e piansi, entusiasmato dalle mie stesse parole. Ogni tanto mi fermavo in ascolto per sentire se qualcuno saliva le scale. Silenziosamente scesi di piano in piano e, senza essere visto, raggiunsi infine il portone. Le strade erano lustre della pioggia caduta nelle prime ore del mattino. Il cielo pendeva sulla città basso e imbronciato e non si vedeva alcuna striscia di sole. Che ora sarà stata? Come al solito mi diressi verso il municipio e vidi che erano 8:30. Potevo dunque passeggiare ancora un paio d'ore. Era inutile andare al giornale prima delle 10, forse anche prima delle 11. Fino a quell'ora avevo il tempo di bighellonare e di riflettere sul modo di procurarmi un po' di colazione. Del resto, non avevo il minimo timore di andare a letto affamato. Grazie a Dio, i tempi erano cambiati. Quello era un periodo passato, un brutto sogno. Da ora si andava avanti. Intanto la coperta verde incominciò a darmi fastidio. Non stava proprio bene mostrarmi in mezzo alla gente con quel fagotto sotto il braccio. Che cosa avrebbe pensato di me? Andando avanti mi chiedevo dove avrei potuto depositarlo provvisoriamente e mi venne in mente che potevo andare da Semp e farmi dare un foglio di carta per avvolgere la coperta. Avrei fatto subito una figura migliore e non avrei più dovuto vergognarmi di portare il pacco. Entrai nel negozio ed esposi il mio desiderio a un commesso. Questi guardò prima la coperta e poi me. Ebbi l'impressione che, prendendo la coperta, egli si stringesse nelle spalle con un certo disprezzo. Mi offesi e gridai: «Perbacco, state un po' attento, ci sono dentro 2 vetri preziosi, li devo spedire a Smirne!» L'effetto fu straordinario. Con ogni suo gesto quell'uomo chiedeva scusa di non aver intuito subito quali oggetti di valore fossero nascosti nella coperta. Quando ebbe fatto il pacco, lo ringraziai della cortesia come uno che già altre volte avesse spedito oggetti preziosi a Smirne. Quando uscii, venne persino ad aprirmi la porta. Mi infilai tra la gente dello Sturtor e mi avvicinai alle fioraie che vendevano piante in vaso. Le grandi rose rosse che ardevano così calde e sanguigne nell'umida mattina mi attiravano al punto di farmi provare il desiderio di rubarne una mentre andavo chiedendo i prezzi soltanto per avvicinarmi a esse il più possibile. Se mi fosse rimasto qualche spicciolo, avrei comperato certamente quelle tre rose. Del resto avrei potuto stringere un po' la cinghia per rimettere in sesto il bilancio. Erano le 10 e andai al giornale. Forbici, l'aiuto di redazione, frugava in mezzo a vecchi giornali. Il redattore capo non era ancora venuto. A un cenno di Forbici gli porsi il mio bel manoscritto, avvertendo che era una cosa più importante del solito e scongiurandolo di consegnarlo personalmente al redattore capo appena fosse arrivato. Nel pomeriggio sarei passato per prendere la risposta. «Va bene», disse quello, e ritornò ai suoi giornali. Mi parve che prendesse la cosa un po' troppo alla leggera, ma non dissi nulla, gli feci soltanto un cenno piuttosto indifferente e me ne andai. Avevo di nuovo molto tempo a disposizione. Se almeno il cielo si fosse un po' schiarito. Il tempo era semplicemente orribile, senza un soffio d'aria fresca. Per prudenza le signore avevano aperto l'ombrello e i berretti di lana degli uomini erano assai buffi e tristi. Feci ancora un giro nella piazza e mi fermai a guardare le verdure e le rose. In quella sentii una mano sulla spalla e mi volsi. Era la Checca che mi dava il buongiorno. «Buongiorno, eh?» domandai per sentire quali fossero le sue intenzioni. La Checca non godeva delle mie simpatie. Egli lanciava occhiate curiose al pacco nuovo fiammante che tenevo sotto il braccio e domandò «Che cos'è?» «Sono stato da Sam e ho comprato la stoffa per un vestito», risposi con indifferenza. «Non ho più voglia di andare in giro così malconcio. Non bisogna trascurarsi troppo.» Quello mi guardò perplesso. «E per il resto come va?» domandò lentamente. «Meglio di quanto potessi aspettarmi. Avete trovato qualcosa da fare?» «Da fare?» replicai con molto stupore. «Sono il contabile della ditta Cristi. Ecco.» «Che cosa sento?» esclamò quello ritraendosi di un passo. «Ne sono lieto per voi. Badate però di non prestare i quattrini che guadagnate adesso.» «Buongiorno.» Ma dopo essersi allontanato, tornò indietro e indicando il mio pacco col bastone soggiunse: «Vi consiglio il mio sarto per il vestito. Non c'è sarto migliore di Isaacsen. Ditegli pure che vi mando io.» Che cosa gli veniva in mente? Perché ficcava il naso nelle mie faccende? Che importava da che sarto andavo? Ero furibondo. In realtà, la vista di quell'uomo fatuo e imbellettato mi aveva esasperato, sicché gli rammentai piuttosto brutalmente le 10 corone che si era fatto prestare da me. Ma prima che potesse rispondere, mi pentii di averlo investito così bruscamente. Rimasi impacciatissimo e non lo guardai più negli occhi. E siccome in quel momento arrivava una signora, mi ritrassi rapidamente per lasciarla passare e approfittai della circostanza per svignarmela. Che fare in quelle ore d'attesa? A tasche vuote non potevo certo entrare in un caffè e non conoscevo nessuno da cui andare decentemente a quell'ora. Macchinalmente girai per la città, ammazzai un po' di tempo passeggiando su e giù fra la piazza del mercato e la Grense, Lessi l'Aftenposten appena affisso, deviai verso la via Carl Johan e tornando indietro andai difilato al cimitero del Redentore, dove trovai un angolo tranquillo sull'altura presso la cappella. Immerso in un profondo silenzio, mi sedetti e mi appisolai nell'aria umida, pensando e gelando. Così passava il tempo. Ma potevo davvero confidare che il mio articolo fosse un piccolo capolavoro di ispirazione purissima? E se aveva qualche difetto nascosto? A pensarci bene, poteva anche non essere accettato, poteva essere respinto. Forse era soltanto roba mediocre o magari cattiva. Ero proprio sicuro che in quel momento non fosse già in fondo al cestino. La mia euforia incominciava a vacillare. Balzai in piedi e uscii di corsa dal cimitero. Nella Akersgate guardai una vetrina e vidi che erano soltanto le 12 più qualche minuto. Mi scoraggiai ancora di più. Avevo sperato che il mezzogiorno fosse passato da un pezzo e prima delle 4 era inutile andare dal redattore capo. La sorte del mio articolo mi empiva di oscuri presentimenti. Quanto più ci pensavo, tanto meno mi pareva probabile che potessi aver scritto qualche cosa di buono così all'improvviso, quasi nel sonno, con la testa febbricitante e agitata dai sogni. Certo, mi ero illuso e avevo passato una mattinata gaia senza fondamento ragionevole, proprio così. In tutta fretta passai per l'Ullevelsvai e, percorse alcune viuzze di periferia, arrivai in aperta campagna e infine su una strada provinciale che si perdeva all'orizzonte. Mi fermai e decisi di tornare indietro. La camminata mi aveva riscaldato. Molto depresso, ritornai lentamente sui miei passi. Incontrai due carri di fieno, i conducenti dalla faccia tonda e spensierata, entrambi a capo scoperto, stavano lunghi distesi sopra il carico e cantavano. Pensai che mi avrebbero rivolto la parola o lanciato un'osservazione o un frizzo. Quando fui abbastanza vicino, uno di loro mi domandò che cosa portassi sotto il braccio. «Una coperta», risposi. «Che ora è?» «Non lo so esattamente, ma saranno le 3». Quelli si misero a ridere e tirarono avanti. Nello stesso momento mi arrivò una frustata su un orecchio e mi sentii portar via il cappello. I due giovani, si sa, non potevano lasciarmi passare senza farmi uno scherzo. Con un grido di collera mi portai una mano all'orecchio e raccattai il cappello che era caduto nel fosso. Proseguendo, incontrai presso il Sankt Hanshaug un uomo il quale mi disse che erano le 4 passate. Già le 4. Le 4 passate, ritornai di corsa in città. Chissà, il redattore era forse già andato via di nuovo. Camminai e corsi velocissimo, inciampando, andando a sbattere contro le carrozze, sorpassando chiunque mi venisse davanti, facendo a gara con i cavalli. Mi affannai come un forsennato per arrivare in tempo. Infilai il portone, feci le scale in 4 salti e bussai. Nessuna risposta. È uscito, pensai. Premetti la maniglia, la porta si aprì, bussai un'altra volta ed entrai. Il redattore capo era seduto alla scrivania, il viso verso la finestra, la penna in mano. Stava per scrivere. Udendo il mio saluto, affannato, si volse appena, mi guardò un momento e scuotendo il capo disse: «Già, non ho avuto ancora il tempo di leggere il vostro articolo». Meno male che non l'aveva ancora rifiutato. Risposi quindi: «Prego, prego, capisco benissimo, del resto non c'è fretta. Tra qualche giorno, oppure vedremo. Vedremo, ho qui il vostro indirizzo». Quindi mi dimenticai di spiegargli che non avevo più un indirizzo. L'udienza era terminata. Con alcuni inchini mi ritiro e una nuova speranza divampa nel mio cuore. Dunque non tutto è perduto, anzi può essere guadagnato. E già mi passa per la mente che il gran consiglio del cielo ha deliberato di farmi guadagnare con quell'articolo il capitale di 10 corone, sicuro, sicuro, 10 corone. Dove trovare ora un ricovero per la notte? Mi chiedo dove posso rifugiarmi. E questo problema mi assilla talmente che mi fermo in mezzo alla strada. Non so più dove sono. Sto lì come un gavitello sperduto in mezzo al mare contro il quale le onde si infrangono e urlano. Un giornalaio mi porge il Viking. Numero interessante, novità interessanti. Io lo guardo e provo una scossa. Sono di nuovo davanti a Sam. Mi volto di scatto, nascondo il pacco sotto la giubba, attraverso di corsa la Kirkegate, costernato e imbarazzato all'idea che possano avermi visto dalla vetrina. Passo davanti all'Innebret e al teatro e scendo verso il fiordo e la fortezza. Trovo ancora una panchina e riprendo a stillarmi il cervello intorno al quesito. Dove andrò a finire? Dove trovare per questa notte un tetto sotto il quale rifugiarmi? Che non ci sia un buco dove cacciarmi e nascondermi fino a domattina. Il mio orgoglio non ammetteva che ritornassi nella mia camera. No, non potevo assolutamente ritirare la mia parola. Respinsi indignatissimo il solo pensiero e sorrisi con aria di superiorità. La sedia a dondolo rossa e ridicola. Per associazioni di idee mi trovai improvvisamente in una grande stanza a 2 finestre allo Hague de Hague, dove avevo abitato una volta. Vidi sulla tavola un vassoio pieno di belle fette di pane imburrato. Poi il quadro mutò. Era una bistecca seducente accanto a un tovagliolo candido, un mucchio di pane e le posate d'argento. La porta si apriva e la padrona di casa veniva a versarmi un'altra tazza di tè. Sogni. Sogni, dicevo tra me. Se ora trovassi da mangiare, la testa mi si confonderebbe di nuovo, la febbre mi arderebbe il cervello e dovrei ancora lottare coi miei folli pensieri. Il cibo non mi faceva più bene. Non ero più preparato ad accoglierlo. Era una mia stranezza, una mia peculiarità. Forse avrei trovato una soluzione sul far della notte. Non c'era fretta. Nel peggiore dei casi potevo cercarmi un cantuccio nei boschi. Tutti i dintorni della città erano a mia disposizione. E poi, di notte, non gelava ancora. Elia Shilton ha letto Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.